L'idea degli stati generali della cultura ha una diretta affiliazione nel manifesto per la cultura che sul Sole 24 Ore domenica del 19 febbraio era stato lanciato, aveva suscitato un enorme dibattito. Qui era intervenuto lo stesso Presidente della Repubblica, nel quale di fatto riprendeva alcuni temi di fondo. Ed ecco quindi che c'è una grande aspettativa proprio per le conclusioni che il Capo dello Stato trarrà dopo una riflessione che partirà da un nuovo capitolo importante che segue al manifesto della cultura, che è l'indice 24 della cultura, cioè un indice tutto economico costruito dal Sole 24 Ore e che verrà sottoposto alla discussione di ministri. Perché tutti questi ministri? Perché l'idea del manifesto era proprio di sottoporre l'emergenza della cultura e la richiesta di porre al centro dell'azione politica di tutto il governo proprio il tema e i vari temi della cultura. Se vogliamo più sviluppo economico ma anche più occupazione, dobbiamo sapere valorizzare appunto tutto il nostro patrimonio culturale e storico-artistico.